tutto giorno di Simone Spezia. Elezioni comunali, debacle dei 5 Stelle, vanno al ballottaggio in soli 8 comuni, in quasi tutti i capoluoghi di provincia si andrà al secondo turno. A Palermo, Orlando riconfermato sindaco, a Genova centrodestra in vantaggio, a Parma Pizzarotti se la vedrà fra 2 settimane col PD scarto. Trionfo di Macron alle elezioni legislative, intanto secondo le stime En Marche sarebbe oltre il 30% con proiezioni per almeno 415 seggi. Puntare sull'Europa contro populismi e protezionismi, dice il neopresidente di Asso Lombarda Bonomi. A Roma scatta l'ordinanza contro i bivacchi sulle fontane storiche, multe fino a 240 euro per chi si siede, mangia o si bagna. Nuovi sbarchi sulle coste italiane, almeno 700 migranti solo in mattinata arriveranno nei porti, il ruolo della guardia costiera libica nel mirino. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, alle notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e i messaggi su WhatsApp, c'è anche la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno dalla quale andiamo in diretta video anche dalla pagina Facebook di Radio 24. È lunedì, quindi anche oggi torneremo sulle tracce di Igor, che avrebbe... il killer del barista di Budrio e di una guardia ecologica, Verri, avrebbe mandato una cartolina ai carabinieri, probabilmente un falso in realtà, però insomma la notizia sta circolando e c'è anche la foto di questa presunta cartolina. Ma in apertura ovviamente ci occupiamo di elezioni amministrative. Un riassunto generale innanzitutto: al momento nei cosiddetti comuni superiori, ossia quelli sopra i 15.000 abitanti, che quindi andranno al ballottaggio, la situazione si presenta nel seguente modo. Vince il centrosinistra al primo turno in 22 casi e va al ballottaggio in 82 comuni. Vince il centrodestra in 8 comuni al primo turno e va al ballottaggio in 77 comuni. Il Movimento 5 Stelle va al ballottaggio in 8 comuni. Per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, nessun candidato 5 Stelle andrà al ballottaggio e nessuno vince al primo turno. In Sicilia, a Palermo, sarà ballottaggio tra Leoluco Orlando. Non sarà ballottaggio perché in Sicilia la legge prevede che se si supera il 40% il ballottaggio non c'è. Leoluco Orlando diventa sindaco con il 46%. A Genova, vantaggio del centrodestra con Bucci su Crivello. In Veneto, a Verona, nessun candidato che supera il 30% e ballottaggio tra Sboarina del centrodestra e Bisinella di Fare. A Padova in testa Bitonci, all'Aquila finisce un'epoca, finisce quella di Massimo Cialente, in testa Americo Di Benedetto del PD, ha un vantaggio di 12 punti percentuali su Pierluigi Biondi del centrodestra. A Catanzaro Sergio Abramo in testa per la riconferma, se la vedrà con Vincenzo Ciconte del PD, partendo però con un 10%, con 10 punti percentuali di vantaggio. Ad Alessandria, comune che esce, lo ricorderete, ne abbiamo parlato spesso, da un commissariamento e da una cura lacrime e sangue, sono in perfetto pareggio il centrodestra e il centrosinistra dell'uscente Maria Rita Rossa. Iniziamo però da un quadro generale. È un quadro generale che riguarda soprattutto le reazioni della politica in queste ore, e iniziamo dal centrodestra e dal centrosinistra che cantano vittoria per aver superato il Movimento 5 Stelle e però insomma non sono non possono dirsi soddisfatti di questa tornata elettorale, forse un po' di più il centrodestra. Vediamo come stanno reagendo. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Intanto io partirei invece dal Movimento 5 Stelle, Simone, perché Beppe Grillo ha appena parlato e si difende dopo la debacle delle amministrative. Elisabetta, su questo abbiamo pronta Teresa Trillò che tra un attimo ci riferirà tutto quanto, quindi ti chiederei di andare su centrodestra e centrosinistra, vai. Renzi ha appena parlato perché ha detto che le comunali sono andate bene, sono buoni i dati delle amministrative. Adesso si va avanti per ballottaggio, in bocca al lupo ai sindaci già eletti. Il giorno dopo delle elezioni solitamente si fanno tante analisi, dice il segretario PD, chiacchiere e discussioni come è persino naturale, ma noi oggi abbiamo fatto una scelta diversa. E perché? Perché con il presidente del Lazio Nicola Zingaretti abbiamo preso una macchina e siamo saliti ad Accumoli, ad Amatrice, per fare il punto sui cantieri. Questo Matteo Renzi. La cosa invece che bisogna sottolineare è il fatto che il centrodestra esulta perché la coalizione guidata da Matteo Salvini della Lega e da Forza Italia non solo va ai ballottaggi ma è in vantaggio, e Matteo Salvini cerca invece di guadagnare da questo risultato una possibile alleanza con Silvio Berlusconi e chiede di tornare al maggioritario nella legge elettorale. Questi quindi sono i due fronti, da una parte Matteo Renzi, dall'altra Salvini, ma soprattutto Simone in mezzo alla legge elettorale. Ovviamente anche la legge elettorale in mezzo. Adesso andremo a collegarci con Teresa Trillò per fare il punto sul Movimento 5 Stelle, però andiamo a fare un giro intanto sui territori. Possiamo sentire tre servizi, andremo a Genova, sentiremo che cosa è successo a Verona e Parma e sentiremo anche che cosa succede in Sicilia, tra Palermo e Trapani. Il centrodestra doppia i 5 Stelle nella città di Beppe Grillo e vola al ballottaggio con il centro-sinistra che tiene la posizione nonostante l'arretramento del PD. La formula della coalizione unita premia Marco Bucci, manager all'esordio in politica, che sfiora il 39% e ora sogna di espugnare una città dal 1985 governata ininterrottamente dal centro-sinistra. Genova ha voglia di cambiare, Genova ha voglia di diventare una città moderna, una città che pensa al futuro, una città che può essere la prima città del Mediterraneo. Al primo turno Genova registra il record dell'astensionismo, il segno di una città che arranca nella crisi e nell'incertezza. A chi non è andato a votare, in particolare nei quartieri popolari, guarda Gianni Crivello, il candidato del centro-sinistra senza tessera del PD, distanziato di 5 punti. Guardo innanzitutto agli indecisi e agli astenuti, poi naturalmente noi lanceremo un appello, chi lo vorrà raccogliere sarà ben accetto. Da domani il centrodestra non è più davanti, da domani si riparte dallo 0-0. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. È il sindaco uscente Federico Pizzarotti, ex 5 Stelle, ad aver conquistato più consensi a Parma. Per lui, candidato con la lista Effetto Parma, il 34,78% dei consensi. Al ballottaggio anche Paolo Scarpa, candidato del centro-sinistra, che ha conquistato invece il 32,73% dei voti. Solo poco più del 3% per il candidato 5 Stelle, Daniele Ghirarduzzi, mentre alla centrodestra, Laura Cavandoli, il 19,2% dei consensi. In città si è registrato un crollo dell'affluenza sotto il 54%, nel 2012 al primo turno aveva votato il 64,5%. Bassa affluenza, 58,9% anche a Verona, dove è in vantaggio il candidato del centrodestra, Federico Sboarina, che ha conquistato il 29,26% dei consensi. Per tutta la notte è stata battaglia per lo sfidante, alla fine l'ha spuntata Patrizia Bisinella, candidata della Civica Fare e compagna di Flavio Tosi. Per lei il 23,54% dei consensi, poco più rispetto alla candidata Dem Orietta Salemi, che alla fine si è fermata al 22,4%. Per Alessandro Gennari, 5 Stelle, il 9,42% dei consensi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non c'è stato il consenso bulgaro del ballottaggio del 2012, ma per Leoluco Orlando cambia poco. Si avvia a rimanere sindaco di Palermo con oltre il 46% dei voti, eletto al primo turno. Stacca e non di poco il suo diretto concorrente Fabrizio Ferrandelli, che ha fin qui totalizzato il 31,5%, mentre il candidato grillino Ugo Forello con il 16,2%, pur migliorando il risultato del movimento delle precedenti amministrative, non sfonda, anzi tutt'altro. Stesso risultato per il movimento di Beppe Grillo a Trapani. Qui l'antipolitica grillina resta un'ombra, nonostante ben due dei cinque candidati a sindaco avessero avuto nel cuore della campagna elettorale problemi con la giustizia. Il candidato dei 5 Stelle, Marcello Maltese, si ferma al 16,2%. Incassa un buon risultato e va al ballottaggio il deputato regionale Mimmo Fazio, finito nel tritacarne dell'inchiesta per corruzione nel cosiddetto affare dei traghetti per le isole. Per lui il 32,8% dei voti. E ormai sembra scontato che vada al ballottaggio il candidato del centro-sinistra Pietro Savona, con il 25,3%. Resta fuori dalla corsa il senatore di Forza Italia Antonio D'Alì, già processato e assolto in appello per concorso esterno in associazione mafiosa e destinatario di una richiesta di obbligo di soggiorno, il quale incassa il 23,8% dei voti. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E tutti i dati un po' più estensivamente, oltre a trovarli anche nelle prossime nelle edizioni di GR24 nell'arco della giornata, li trovate sul sito del Sole 24 Ore, dove c'è uno speciale dove potete andare nel dettaglio per quanto riguarda tutte le singole città. Si diceva, la reazione del Movimento 5 Stelle è appena arrivata con le dichiarazioni di Beppe Grillo. Siamo in linea con Teresa Trillò per farcele raccontare. Teresa, buongiorno. Buongiorno a te, Simone. Sì, Beppe Grillo, dopo essere stato chiuso in casa per tutto il giorno, ha postato da pochi minuti su Facebook il suo giudizio sulla tornata elettorale di ieri, e secondo lui il Movimento 5 Stelle non è andato poi così male. E c'è una crescita, c'è, lenta, ma c'è. Il Movimento 5 Stelle, scrive appunto Grillo, è stata la forza politica più presente a questa tornata elettorale. Gli altri partiti si sono camuffati, soprattutto il PD, che si è presentato in circa metà dei comuni rispetto al Movimento. E poi scrive ancora: i risultati sono indice di una crescita lenta ma inesorabile, e osserva: tutte le prime pagine dei giornali sono però dedicati al fallimento del Movimento 5 Stelle. Illudetevi che sia così per dormire sonni più tranquilli, noi continuiamo ad andare avanti per la nostra strada. E Grillo dice anche che ora il primo obiettivo del Movimento 5 Stelle è dare il massimo supporto ai candidati del Pentastellati al ballottaggio, anche perché a luglio ci sarà il candidato presidente della regione siciliana, a settembre il candidato premier, e il 5 novembre ci saranno le regionali siciliane, e ci mobiliteremo, scrive, per far sì che quella splendida isola diventi la prima regione a 5 stelle. Dopo ci saranno le politiche e l'obiettivo è andare al governo. Successi e fallimenti fanno parte della nostra storia. L'importante è non mollare mai. Per ora è tutto. Grazie dunque a Teresa Trillò anche per questo aggiornamento. C'è stato un altro voto ieri, un voto molto importante, è quello delle elezioni legislative in Francia. Sentiamo. Un terremoto, e il fatto che fosse stato anticipato non toglie nulla al suo impatto devastante, tanto più che la scossa è di una forza superiore alle previsioni di tutti i sismologi della politica. Un mese dopo la stupefacente conquista dell'Eliseo, il 39enne Emmanuel Macron vince alla grande le elezioni legislative e ottiene oltre 400 deputati su 577. Solo la destra nel 93 aveva fatto meglio, con 484 seggi, ma si trattava degli eredi di De Gaulle. Questa volta parliamo di un movimento nato poco più di un anno fa che ancora si sta trasformando in partito. Lo tsunami Macron ha spazzato via tutto quello che ha trovato sul suo cammino. I socialisti, che vivono la peggior sconfitta della loro storia, passano da 320 deputati. L'estrema destra di Marine Le Pen, che deve accantonare i sogni di gloria e accontentarsi di 2 o 3 seggi. La sinistra radicale, che non è neppure certa di avere un gruppo parlamentare. La destra dei Repubblicani, che sperava in una rivincita e dimezza la propria forza alla Camera. E il bipolarismo, con l'abbattimento delle frontiere tra destra e sinistra. Per la politica francese è una sorta di anno zero. I partiti storici dovranno capire come ricostruire sulle macerie, sempre che sopravvivano. E lo stesso Macron dovrà fare i conti con un successo di dimensioni inattese, che certo gli garantisce la maggioranza indispensabile a sostenere il suo programma di riforme, ma non sarà facilissimo da gestire, con un Parlamento composto in larga parte da neofiti della politica. La vecchia Francia, sulla quale sono puntati i riflettori dell'Europa e di mezzo mondo, è insomma diventata in poche settimane il laboratorio dove si sta sperimentando una nuova idea della politica. Che sia quella buona per il futuro è ancora presto per dirlo. Marco Mussanè, Radio 24 e Sole 24 Ore, Parigi. Siamo all'assemblea di Assolombarda, in svolgimento in queste ore, la sta seguendo Anna Marino. Anna, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Oggi, come diceva, Assemblea Generale di Assolombarda. Questa mattina in seduta privata è eletto Carlo Bonomi presidente dell'associazione per il quadriennio 2017-2021, dopo la nomina avvenuta quasi all'unanimità su 685 voti, 683 favorevoli, debutto in assemblea appena conclusa presso il Teatro della Scala. Da palco Bonomi ha sottolineato come a Milano e la Lombardia sono tornati a trainare l'economia, ma occorre rilanciare la riforma dell'IRPEF, e ha pronunciato il suo no ad elezioni anticipate se mettono da parte l'economia. E il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha ribadito che non ci sarà appunto una manovra lacrime e sangue, ma ha ricordato che oggi pomeriggio escono i primi risultati di Industria 4.0 e ha ironizzato sulle varie date ipotizzate per le elezioni parlando di numeri all'otto. Di rimando, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha ribadito come l'assemblea, come anche nell'assemblea di Rapallo, come sia merito anche degli industriali e dei loro investimenti una legge di bilancio meno pesante, e ha fatto un appello affinché la stagione riformista del governo Gentiloni vada avanti. A margine, tema caldo, anche qui ancora la politica. Il governatore della regione Lombardia, Roberto Maroni, ha commentato il voto delle amministrative nei comuni puntando il dito sul calo del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali. Colpa, dice, delle pettoraggi dell'amministrazione di Roma. E il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha avvertito grande rispetto per i partiti tradizionali, ma che non cantino vittoria. E per ora è tutto. Grazie dunque Anna Marino per questo aggiornamento. Veniamo ai nuovi sbarchi di migranti. Dopo i 1.200 migranti arrivati nel fine settimana, sono ancora sbarchi. 724 persone sono arrivate questa mattina al porto di Palermo. Le operazioni di sbarco sono state compiute dalla nave Prudence di Medici Senza Frontiere. Altri 356 migranti sono invece arrivati a Catania a bordo di una nave militare svedese dell'assetto Frontex. A bordo anche 8 salme, 6 donne e 2 uomini. E sono attese per le prossime ore 300 persone circa al porto di Reggio Calabria. Anche in questo caso fra loro c'è una salma. Tutto questo dopo gli sbarchi intensi del weekend e gli spari in mare delle motovedette libiche contro i natanti italiani, nonostante la formazione offerta dal nostro paese. È accaduto sabato dopo il naufragio di un gommone con a bordo 130 persone. Ma non è un episodio isolato, era già accaduto il 24 maggio, in quel caso contro una motovedetta italiana della Guardia Costiera. Segnali inquietanti che indicano quanto la situazione nel Mediterraneo, nonostante l'accordo fra Italia e Libia di febbraio, sia sempre più fuori controllo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sulla situazione libica, sempre la nostra Valentina Furlanetto ha sentito Claudia Gazzini, esperta del paese e ricercatrice dell'International Crisis Group. Sentiamo. L'addestramento della Guardia Costiera si avvale di persone con legami dubbi con le autorità dello Stato, perché negli ultimi 2 anni abbiamo visto che molte di queste gruppi legati ufficialmente alla Guardia Costiera, quindi hanno questo nome, sono anche in combutta con i trafficanti. Ma dobbiamo inserire questo intervento italiano-europeo nel contesto libico. Libia sta soffrendo un'enorme crisi economica da 2 anni, per cui le milizie, anche quelli che sono membri di unità ufficiali dello Stato come la Guardia Costiera, in realtà sono ben lieti di accettare gli aiuti, gli incentivi che vengono dati dai trafficanti stessi. Quindi finché non si risolve il quadro economico della Libia, il deterioramento di questo quadro economico, sarà difficile riuscire a mettere in piedi anche una forza di sicurezza che veramente è genuinamente impegnata a contrastare il traffico di migranti. A chiudere questa prima parte della trasmissione, ci occupiamo di sport, perché Dario Ricci, ciao, buongiorno. Buongiorno. È stato un fine settimana discretamente ricco, Assolutamente, direi quello dei nuovi e vecchi miti, no? Perché sicuramente Dovizioso, con la sua seconda vittoria consecutiva sulla Ducati, sta diventando il protagonista forse inatteso, no? del moto mondiale, mentre sempre più in difficoltà c'è Valentino Rossi che comincia a avere qualche frizione con la sua Yamaha, no? Sembra che si siano troppo fidati dell'Aston Argente Vignales nel mettere a punto la nuova moto, trascurando invece le indicazioni del vecchio saggio Valentino, che non l'ha presa benissimo, e adesso sono problemi da risolvere in un mondiale molto aperto. Dalle 2 alle 4 ruote un altro mondiale con qualche problema. Sì, quello della Ferrari, perché magari ci avevamo fatto un po' la bocca all'idea che potesse essere una cavalcata trionfale. Montreal ci ha restituito invece una Mercedes ad altissimo livello, un Lewis Hamilton che non ha nessuna intenzione di abdicare, un Vettel che però ha conquistato un quarto posto, che in quella gara, in quelle condizioni, con quella pessima partenza, magari tornerà utile e fra qualche mese lo rivaluteremo. Altri miti, vedo che hai già sulle labbra il nome di Nadal. Rafa Nadal, perché insomma. 10 è incredibile, mi viene da sorridere a dirlo, 10 Roland Garros dopo 10 Monte Carlo, insomma è il signore della terra rossa, e anche quella è una straordinaria resurrezione. Nel giorno in cui Usain Bolt a Kingston in Giamaica ha iniziato il suo tour d'addio, come sai sarà la sua ultima stagione, culminerà nei mondiali di Londra di atletica, ma eccola, forse la stella più grande di questo ventennio, che inizia la sua conclusiva parabola. Oh, che bello! Chiudiamo la prima parte di Effetto Giorno il lunedì e non tocchiamo nemmeno per un attimo l'argomento del calcio. Per una volta non è male, grazie. 5-0, 5-0. No, 2 non voglio sentire niente. Non voglio sentire niente. Calcio. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta su Radio 24, ma sempre in diretta anche in video sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Prima di iniziare il nostro giro per l'Italia, una piccola precisazione. Un ascoltatore tra l'altro l'ha notato scrivendoci via SMS, c'è stata un po' di confusione all'inizio per quanto riguarda la cronaca soprattutto dei partiti, delle reazioni di centrodestra e centrosinistra e del Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative. È stato un piccolo momento di confusione che è dovuto esclusivamente a me, e grazie alla professionalità delle colleghe Teresa Trillò ed Elisabetta Fiorito siamo riusciti comunque ad offrirvi il servizio migliore che abbiamo potuto in quella condizione. Il nostro giro per l'Italia inizia da Roma, insomma quando uno sbaglia lo deve ammettere e deve scusarsi, ed è esattamente questo il caso. Andiamo a Roma, appunto, dove è stata firmata oggi dalla sindaca Virginia Raggi un'ordinanza che vieta di consumare cibi, bagnarsi, arrampicarsi o sedersi sui marmi delle fontane artistiche di Roma, pena una multa che può arrivare fino a 240 euro. Saluto Marco Cardilli, che è vice capo di gabinetto e delegato alla sicurezza per Roma Capitale. Cardilli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Chi la fa rispettare questa ordinanza? Perché è la prima cosa che ci siamo chiesti tutti quanti, è esattamente questa, perché come dire, le ordinanze è sempre facile farle, no? Le leggi è sempre facile farle, poi bisogna farle applicare. Riuscite a metterci abbastanza vigili, a farla funzionare oppure no? Ma sicuramente il nostro impegno sarà massimo. Da questo punto di vista abbiamo coinvolto il comando della polizia locale e stiamo studiando, già è stato adottato un provvedimento per la sorveglianza delle fontane. Ovviamente le fontane che sono elencate sono fontane di grande pregio, sono 37 fontane, ovviamente non sarà facile diciamo vigilarle costantemente tutte quante, quindi abbiamo previsto un servizio dinamico, e in questo noi però contiamo molto anche su, diciamo, sulla comunicazione verso il cittadino e quindi su un innalzamento del livello di attenzione e di tutela anche da parte dei cittadini che devono essere coinvolti in questo. Sì. Questo per quanto riguarda i cittadini di Roma, poi ovviamente quelle fontane vengono visitate da moltissimi turisti. Che cosa farete? Metterete dei cartelli? Li avviserete in qualche modo? Come funzionerà? Ma sicuramente questo provvedimento va accompagnato sia da un'azione di vigilanza e sensibilizzazione, come abbiamo appena detto, ma va anche completato con un'azione informativa. Questo comporterà che applicheremo dei pannelli su dei totem mobili, in modo tale che anche in lingua anche straniera, quindi anche il turista sarà edotto della diciamo sia del rischio di essere sanzionato, ma anche della necessità di mantenere un comportamento corretto e decoroso nel rispetto del monumento. Sì, ci ricorda Edoardo e ci scrive via WhatsApp. Sì, poi arrivano i tifosi di calcio, si riferisce alla famosa vicenda del Feyenoord, e devastano le fontane. Comunque, vabbè, insomma, non è questo il caso, parliamo della gestione dell'ordinario, no, Cardilli? Sì, sicuramente. Allora, sono due aspetti importanti, anche se con profili molto diversi. Ovviamente lì c'è un profilo importante di ordine e sicurezza pubblica, nel quale insomma anche la questura delle forze dell'ordine poi sono coinvolte. Nell'ordinario ovviamente noi svolgiamo un'attività diversa, perché nella vita di tutti i giorni è necessario che tutti possano usufruire di questi importantissimi beni monumentali e patrimoniali della nostra città. Cardilli, allora facciamo così, ci riserviamo di valutare magari tra un mesetto come sono andate le cose con questa ordinanza, se ha funzionato oppure no, ci saranno anche parecchie testimonianze fotografiche a dircelo. Intanto la ringrazio, grazie a Marco Cardilli per essere stato con noi, vice capo di gabinetto e delegato alla sicurezza per Roma Capitale. Marika Kasimatis, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito. E con lei veniamo alle amministrative, anche se abbiamo veramente pochissimo tempo, Kasimatis. Sì. Marika Kasimatis, lo ricordiamo, era candidata del Movimento 5 Stelle, poi è stata sostanzialmente estromessa da Grillo dopo aver vinto le comunarie, o insomma come si chiamano, le elezioni online, le comunarie, giusto, è stata estromessa, sostituita da un altro candidato che in questo caso è arrivato terzo. Il suo giudizio su quello che è successo? Allora, sicuramente il Movimento 5 Stelle a Genova ha subito una fortissima pressione, deflessione insomma del voto, e questo può essere stato una conseguenza di quello che è accaduto alla mia lista, in quanto è stato disconosciuto il voto del blog, che è un po' il fulcro del sistema. Sa cosa diranno? Che è colpa sua? Diranno che è colpa sua. Ma direi che è colpa di Beppe Grillo, che ha consegnato in mano alla destra l'amministrazione di Genova. Se avesse rispettato le regole del movimento, come poi era stato anche confermato da un'ordinanza del giudice, tutto questo non sarebbe accaduto. Potremmo essere al ballottaggio e non lo siamo. Questo diciamo è responsabilità di chi ha fatto saltare il banco, e spero che ci sia un'autocritica. Adesso mi dicono lei ci rientra, se ci fosse l'autocritica, ci rientrerebbe nel movimento Cassimatis? No, anche perché sinceramente non credo che farà un'autocritica. Ad oggi, al momento, non c'è stata ancora una replica, una conferenza stampa del Movimento 5 Stelle, quindi si stanno un po' sottraendo a dalle risposte. No, diciamo che il movimento di originale con il quale noi abbiamo iniziato il lavoro, che ha avuto un grande successo di adesioni dei votanti, non c'è più, ecco, è cambiato tutto, e quindi ce ne facciamo una ragione e noi proseguiamo per la nostra strada, che è appena iniziata, però ha avuto comunque riscontro, e con i nostri poverissimi mezzi siamo riusciti ad arrivare fino a questo punto e andremo avanti. Grazie Marika Cassimatis per essere stata con noi. A proposito dell'errore sulle amministrative, scrive Marco da Ferrara: no, basta, vogliamo le tue dimissioni, inaccettabile l'errore. Naturalmente sta scherzando, e lo ringrazio perché fa sorridere pure noi. Ci fermiamo e poi abbiamo un minuto, due minuti col nostro amico Daniele Predieri, cronista appunto della Nuova Ferrara, per parlare di Igor. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: le elezioni comunali, debacle 5 Stelle, vanno al ballottaggio in soli 8 comuni, ma Grillo dice è il PD che sta scomparendo. A Palermo Orlando riconfermato sindaco, a Genova centrodestra in vantaggio, a Parma Pizzarotti se l'avrà, vedrà fra due settimane col PD Scarpa. Trionfo di Macron intanto alle elezioni legislative, secondo le stime Marche avrebbe almeno 415 seggi. Roma scatta l'ordinanza contro i bivacchi sulle fontane storiche, multe fino a 240 euro. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, come sapete la puntata del lunedì è un po' più corta, abbiamo ancora un paio di minuti e siamo sempre in diretta sulla pagina Facebook di Effetto Giorno per andare a parlare di Igor il serbo, per essere più precisi, e non il russo, anche se così è noto, l'assassino del barista di Budrio della Guardia Ecologica Verri. Proseguono le ricerche, anche se abbiamo visto che sono forse un po' spostate, c'è qualche elemento di smobilitazione, e c'è Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara, che torna da noi, ormai voce consueta, ce l'abbiamo. Daniele, ciao. Sì, sono qui, buongiorno a tutti. Eccoci qua. C'è anche una cartolina che probabilmente è un falso, che nella quale dice grazie Livorno, addio Italia e soldati schifi, firmato Igor, inviato ai carabinieri dell'Emilia Romagna, però insomma loro la devono acquisire comunque per verificare se c'è qualcosa, no? Sì, ovviamente, cioè, questa è una cartolina che noi come Nuova Ferrara abbiamo pubblicato ieri, che abbiamo avuto, e ci sembrava anche doveroso, diciamo, segnalarla. È una cartolina che è arrivata qui, è stata repertata come tutto quanto, come tutte le segnalazioni bizzarre e fantasiose che sono arrivate in questi 2 mesi e mezzo, anzi 65 giorni per essere precisi. Ma poi bisognerà farne probabilmente una lista, no, di queste segnalazioni fantasiose. E là le cose come vanno sul territorio, Daniele? Più o meno come ci siamo detti venerdì, no? Quest'area. Sì, come avevamo detto, che avevamo già annunciato, cioè non si tratta di smobilitazione, si tratta ovviamente di un termine diverso, che è, diciamo, un ridimensionamento, perché ovviamente la situazione, diciamo così, ufficiale è che proprio dagli inquirenti di Bologna dicono che si sono avute prove certe, riscontri importanti, che che Igor il russo, Norbert il serbo, sia stato lì al massimo fino al 15 maggio. Da allora in poi non ci sono state più tracce, niente, e tantomeno segnalazioni. E l'unica cosa c'è questa burla della cartolina, che è una burla. Perdonami, questo vuol dire sostanzialmente, rispondi solo un sì o un no, che potrebbe essersene andato un mese fa? Questa potrebbe essere un'ipotesi. Non a caso la cartolina è timbrata dal centro meccanico postale di Firenze il 17 maggio. Fosse anche lui. Vabbè, io ti ringrazio. Grazie Daniele, magari ci risentiamo venerdì e vediamo se abbiamo qualche novità. Ci fermiamo dunque, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.